Paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. Yeah. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like volley, 'cause I know from a night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, so don't worry. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, what I heard was nah, yeah. I being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bush. I being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get hit with that, suggest you just flush. Fedra. Fedra. Yeah. You don't even know how to provide for your shit. Broke ass guys, I spent five on a chick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? 'Cause I am the shit. Yeah, I am the lick. And you should pipe down. Go make like Will Young and leave right now. 'Cause I could turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. I don't really care the earrings you wear, the ups and downs in and out of your hair. I don't really care with the girl who works here, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? Yes. Yeah. Come Fedra? Cosa vuoi Fedra? Non mi hai chiamato, ma siamo al coxo? Siamo al coxo, ho dovuto abbassare la musica perché il tempismo era sbagliato. Mi dispiace, ma sai, eri qua a Roma. Sono insieme al gruppo dei tecnici, vuoi che te li presenti? Ma cosa fai a Roma, Fedra? Faccio la solita performance di proiezioni sul corpo. Ah. Quello è il nuovissimo bestiario. Ti passo gli amici che sono qua, che stiamo per andare insieme, sono tutti quanti in fervore. Dai, passameli tutti. Dai, ciao. Primo. Sì. Ciao. Ciao, chi sei? Ciao, Stefano. Stefano, anch'io Steve. Sono Stefano. Ciao. Anch'io. Ah, bene, molto bene. Molto piacere. Mi raccomando, trattatemela bene, Fedra. Certo, molto, molto bene. Guarda, io sono stato prima nascosto apposta, non ho visto le prove, perché mi voglio gustare la performance live tutta ad un fiato. Mi sembra un'ottima idea. Poi chi c'è anche? Guarda, ti passo Domenico, che è il nostro responsabile video e riprese cinematografiche, e questa sera farà delle riprese, quindi te lo passo subito. Ciao. Ciao. No, io niente. Cosa mi fai? Domenico, no? sei live nella radio, sei contento? Contentissimo, contentissimo. E io questa sera farò una cosa particolarissima, perché dovrò tenere la performer legata ad una corda, perché siccome si esibirà sul ciglio di un balcone, con rischio di caduta. Ecco, mi raccomando, non mi uccidete Fedra, che dopo mi tocca di fare il coxo con Riccardo Lolli tutti i venerdì, diventa un disastro. E quindi il mio ruolo di questa sera sarà legare una corda alla cintura, abbastanza invisibile, e trattenerla. Molto bene. Allora io vi faccio il mio in bocca al lupo. Spero che non me la uccidiate e vi saluto caldamente. Faremo il possibile. Molto bene. Ecco. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pronto, Fedra, allora? Allora ci sentiamo venerdì prossimo. Sbacciucchiami Lolli, che me lo sarei sbacciucchiato io. Altrettanto, grazie. Mi raccomando, ti sbacciucchi anche lui. Stasera, sì, che non ti preoccupare. Come vedi, ho il telefono sotto controllo. Bravo, sono super mega galattiche, mi raccomando. Molto bene, ti mando un bacio e smettiamo di essere autoreferenziali e ti saluto. Io farei. Cosa? Ok, vado a cambiarmi. Vatti a cambiare. Ciao, ciao. Grazie. Ah, giusto, siamo benvenuti alla 172esima puntata di Coxo Spaziale. E sento della musica di sottofondo abbastanza spaventosa, si chiama Richard Warburton, e stavolta invece con noi abbiamo in studio Riccardo Lolli e Giulio Lolli. Come ciao. State? Ciao. Ma abbastanza bene, reduci da una buffata di sushi sashimi, olio can eat, per cui nei limiti nei limiti del diabete, diciamo, restando entro i margini, però insomma siamo stati abbastanza bene. Siamo oggi un radio tour perché sono stato in un'altra web radio nel pomeriggio, al buio con un DJ cieco. E poi hai inaugurato la settimana scorsa uova, soda e noci su Radio Città Fujiko. Questa è una notizia importante, per me importantissima, perché non so se, chiaramente nessuno è al corrente, a parte i miei amici di Facebook, però è dal 2001 che tento di fare questo programma e tutti mi te lo snobbano. Sì, per dire una cosa molto volgare, ma insomma. E invece finalmente, grazie anche alla tua intercessione soprattutto, insomma. Sì, diciamo che ho dovuto forzare un po' il grimaldello di Radio Città Fujiko, ma anzi ringrazio ufficialmente il nostro direttore che, anziché radiarmi, ti ha accolto. Io insomma, lo ringrazio ovviamente anch'io, che non ho avuto il piacere di farlo ancora. E io sono in onda al giovedì alle 23 con un'oretta di cose che generalmente non si sentono, almeno io penso che non si sentano, perché non le sento, quindi certo, probabilmente anche io non le sento. Poi detto questo, io non ascolto tanta radio, ascolto giusto Radio Città Fujiko quando sono in macchina, e poi però quando sono in autostrada a un certo punto scompare e ascolto la neve della radio, quella che fa bzzz. Eh beh sì, adesso tra un po' arriverà poi il DAB, non lo so com'è, Digital Audio Broadcasting. Ah giusto. Quindi tu l'FM via. Tutte le FM. Tutte le radio dovranno adeguarsi. E noi cosa facciamo? Non lo so, dovremmo adeguarci. Dovremmo, nel senso, dovrete. Però, molto bene. E io invece ieri sono stato a vedere una gran mostra, che si chiama Costruire il Novecento a Palazzo Fama, e siccome appunto ne approfitto che non c'è Feda, posso parlare di arte contemporanea, sono andato a intervistare la curatrice, la nostra Silvia Evangelisti, e così arte contemporanea. E poi ho messo anche Coxo risponde, perché ci sta bene, visto che le ho fatto una domanda finalmente. Fedra. Posso rispondere? Ah, ci sei anche te. Sono qui con Silvia Evangelisti, la curatrice della mostra, e le dicevo che l'amore per Licini effettivamente me l'ha infuso lei, e infatti sono qui che sto fremendo per andare a vedere, perché Licini non si vede tanto spesso in giro adesso, e infatti ti volevo chiedere appunto, questa pensi che sarà un'opportunità per far riavvivare il fuoco che contorna un pittore così importante per il Novecento? Sicuramente. Questa mostra, oltre ad avere un sacco di Morandi sconosciuti, comunque sì, poco visti, ed è una, conosciuti per Bologna, ma non visti dal vero. Esatto, per Bologna è, una, sì, è un'opportunità enorme, appunto, ha anche... Trovo che ci siano due chicche in questa mostra, lo dico sempre, ecco. Licini e Maffay. Mm-hmm. Licini e Maffay sono due artisti di grandissima qualità, poco conosciuti, perché si sono un po' persi nelle pieghe della storia, e poi perché l'arte italiana non ha internazionalmente nessun supporto, non ha, insomma, così, noi bisogna che ci facciamo largo con le nostre forze, cioè, esatto, dire, quelli manca che, una struttura, diciamo, che altri paesi hanno molto ben solida. Assolutamente niente, no, perché voglio dire, Pollo che è famoso nel mondo, ma dal 38 al 50 il Dipartimento di Stato americano ha organizzato ben 57 mostre di Pollock in giro per il mondo. A proprie spese, no? Infatti, diciamo le stesse cose. Tra cui una a Roma. Certo. Ecco, quindi Licini, che è un artista, è un poeta, che lui diceva: le mie opere sono fatte di sogni e di segni. E sono, lui si autodefiniva errante, eretico, erotico, e quindi questo è una personalità straordinaria, è stato anche un uomo molto impegnato nella società, perché si sentiva di essere, come dire, di avere una voce che altri non potevano avere, ed è stato un pittore di una qualità non comune. Licini ha un problema, che ha opere molto piccole, lui faceva queste, questi qua, non che Morandi abbia fatto delle palle d'altare, certo, però quelli di Licini sono proprio, so, 25x35, cioè sono, sì, sì, sì, perché sono queste, queste, questa sorta di pensiero immediato. Ecco, e quindi, qui si vede però che mondo c'è in uno spazio piccolo, che grande mondo può contenere anche un cielo di 20 centimetri per 30. Esattamente, io ti ringrazio e invito tutti ad andare a venire a vedere questi meravigliosi Licini. Grazie. Spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Poi scavandomi tra la folla riesco anche a carpire qualche altro aneddoto di questi artisti che ormai si parla di un secolo fa, ma rimangono comunque molto contemporanei. Il rapporto tra Morandi e Licini è estremamente affascinante. È un rapporto di cui si è parlato tanto, non è inedito, ma non è risolvibile come tema, perché è una storia che intreccia vicende umane e vicende artistiche. Licini e Morandi sono insieme all'Accademia di Belle Arti nel 1907 e insieme a Giacomo Vespignani e a Mario Bacchelli, che era il fratello di Riccardo Bacchelli, e Severo Pozzati. Erano un quinquetto che si trovava in un'accademia ancora un po' post-impressionista, cioè magari post-impressionista, post-ottocentesca, dove era, insomma, l'accademia accademica, e questi erano invece cinque recalcitranti. E da qui nasce questo gruppo che fa la mostra al Baglioni, all'Hotel Baglioni, la mostra di un giorno, che è stata detta la mostra futurista. Qui abbiamo un'opera, era più cubista che futurista, ma era più che altro velleitaria per il nuovo. Licini andava spesso a Parigi, perché Licini aveva i genitori che abitavano a Parigi, quindi era l'unico che conosceva dal vivo gli impressionisti. Gli altri li vedevano sui libri, sulla Voce, stampati in bianco e nero, Monet in bianco e nero, non se lo può immaginare che cosa ci capivano, poveretti. Quindi l'idea di un colore che gli dicevano naturale quale sarà, cioè, quindi giovani curiosi e estremamente, come dire, anche Morandi, perché adesso lo si vede con la luce del poi, Morandi lo vede sempre così, era un giandone, c'è una fotografia di Morandi, era alto 1,90, gli altri anche piccolini, e sembra un tontarlone come aspetto fisico, perché lui era... noi lo vediamo con le opere finali, ma invece è stato curioso di tutto. Ecco, quindi questo rapporto inizia con una grande complicità, certamente il marchigiano Focoso era quello che tirava più il gruppo, no? Morandi era insieme a questo gruppo, poi le vie si dividono pian piano Morandi entra, attraversa così velocemente la metafisica, arriva ai valori plastici e poi arriva a questo suo mondo così molto meditato, un mondo silenzioso, un mondo fatto di forme che non importa quali siano, che sia una bottiglia, che sia un vaso, sono le forme che vivono in uno spazio, che siamo noi che viviamo nello spazio. Non? Mentre Licini invece la sua ricerca la fa sempre più verso una folgorazione, verso il cielo, verso il blu del cielo, il blu del 18, che sarà poi il blu di Klein dopo, e, insomma, verso quindi un'idea fantastica, e quindi il suo astrattismo è anche un astrattismo non configurabile con un astrattismo geometrico, con un astrattismo regolare. Appunto lui in questa lettera molto bella scrive: viva la pittura irrazionale, ed è un grido contro Morandi, ma contro Morandi suo amico. Quindi e poi c'è un momento proprio di grande distacco, quando appunto Morandi ha grande successo, dice: non c'è la fine a nessuno, e quindi nella quadriennale del 35, la quadriennale del 39, Morandi è il leader, il grande leader della situazione, e Licini scrive queste lettere bellissime a Giuseppe Marchiori, in cui gli dice: non so cosa ci trovino in Morandi, sembrano il mondo visto da un vecchio con le cataratte, e tutta questa polvere andrebbe spolverata. Coxo, Dunque basta tutta questa sacralità attorno a Giorgio Morandi, perché Morandi era un gigiurlone, nelle parole di Silvio Evangelisti. Detto questo, poi io Morandi lo devo tenere buono, perché appunto l'esimio Renato Barilli ha inserito me medesimo, il mio modesto video Bisogna lavorare, nella mostra Bologna dopo Morandi, per cui non posso assolutamente dire nulla, anche se una mostra a Baglioni non l'ho ancora fatta. Gran pezzo questo, eh? With Everything to Lose. Esatto, gli Style Council. Lo facevo col mio gruppo di cover tipo 30 anni fa, la suonavamo questa qui. Dio buono, c'ha già 30 anni una canzone. Così, anche qualcosina di più, eh? 1984, 83. Questa è, diciamo, tra 85, giù di lì. Vedi, il bello di portare della musica a Coxo Spaziale è che Lolli la conosce. Beh, no, non tutta. Questa in particolare, io ero un fan sfegatato di Style Council. Sono andato a vederli anche a Teatro Tenda, tutti con le giacche, con i giacconi, mod, eravamo tutti disperati, però allegri. Disperati ma allegri. 17enni mod di Bologna. Ma eravate tanti? No, eravamo 5-6. Spaziale non l'ascolterò mai. Questa era l'Anna Rossi che diceva che Coxo Spaziale non l'ascolterà mai, e che probabilmente è vero, perché sta a Vignola e probabilmente non l'ha mai ascoltato, chi lo sa. E dunque, a che punto siamo? Che manca non molto alle pubblicità delle 9:30, ma abbiamo il fantasmagorico. Ma cosa dici, i 2 minuti di Lolli li mettiamo oggi o non li mettiamo? Ma sì, mettiamoli, tanto io. Mettiamoli. li mettiamo dopo. Sì, sì, ma con comodo. Se rimane comodo, tempo, se rimangono due minuti. Ma certo che rimangono due minuti, non abbiamo niente da raccontarci, perché c'era un ospite, ma è morto. Allora non c'è più. No, non è vero, non c'è mai stato nessun ospite. È che io, siccome ci sono sempre un sacco di ospiti a Cox Spaziale, ho approfittato per avere calma e tranquillità con solo Giulio e Riccardo Lolli, che insomma non è una cosa da niente. Dicevamo, ascoltiamo il meraviglioso intervento del nostro caro amico Luigi Franchi, detto Vino, che chissà con che cosa ci delizierà oggi, visto che non l'ho ancora sentito il suo intervento. La rubrica di Vino. Come il nome di un cinese. La vita è bella, la vita è ciclica, spesso in ritardo. Quest'anno l'inverno si è fatto attendere un po' di più, la primavera invece è sempre più in anticipo e nel mezzo gli studenti hanno distrutto la città. Mi hanno regalato un pesce rosso. Sono rimasto a guardarlo nella busta di cellophane per molti minuti prima di prendere una decisione sul da farsi. Il cesso mi sembrava banale, il sushi non mi piace molto. Compro un gatto, ma poi cosa me ne faccio? La capacità di scelta è una facoltà fondamentale per il nostro modo di vivere. Qualsiasi cosa decidiamo di fare è il battito d'ala di una farfalla in Giappone che scatena il ciclone in California. Oppure l'insensato movimento del pennello di Pasquini che scatena un'epidemia di gastrite nel Forlivese. Perché siamo tutti connessi, tutti in simbiosi, tutti interlacciati. Ergo, ponderare bene prima di agire. Il pesce rosso vi guarda, ma ora so cosa fare. Creatività generica. Sei sempre tu. Ah, io sono dovunque, sono dappertutto. Veramente. C'è Bacciocchi che dice che te sei dovunque, invece sono io che sono dovunque. Bacciocchi, non ho capito dove, cosa. Vabbè, Bacciocchi è un nostro comune amico di Facebook, naturalmente, che gli ho scritto ieri e non mi ha visualizzato e non mi ha risposto, per cui non so che dire quando qualcuno. Anzi, in realtà anche oggi devo dire che in questi giorni la mia comunicazione non sta andando al meglio. Ho messaggiato un'altra amica che non vedevo da un sacco per invitarla a un evento domani, ma ha visualizzato su WhatsApp e non mi ha risposto. Ma è un po', saranno questi pianeti nuovi, sarà la situazione americana, ci sono tante variabili che magari incidono sulle conferme messaggistiche, non lo so. Ci sono tante variabili. Io ultimamente stavo pensando a San Francisco. Tu ci sei mai stato a San Francisco? Purtroppo no. Un mio amico me l'ha descritta nei dettagli e mi piacerebbe molto andarci. Però non... No, anche perché ultimamente hanno costruito un sacco a San Francisco. Ho visto una foto di San Francisco con un sacco di grattacieli che rispetto, te lo ricordi le strade di San Francisco, no? Sì, che, sì. Che noi all'ora di pranzo tornavamo dalle medie e davanti al nostro schermo c'erano inseguimenti sulle discese, le esattamente, salite, c'erano le strade di San Francisco, che naturalmente sarà cambiata tantissimo. E appunto ho visto sta cosa qua di un sacco di, c'era addirittura una piramide enorme, cioè tipo un edificio fatto a piramide enorme, e in mezzo a questi saliscendi con le casette dell'Ottocento. Io vorrei tanto andare da Ameba, che è il negozio di dischi che è a San Francisco, solo che ho paura che non mi basti la carta di credito. Allora ti conviene andare con una ricaricabile, perché altrimenti la spendi tutta. È un po' spaventoso così. Io effettivamente i due anni che ho passato in America avevo una bella carta di credito inglese e l'ho finita. Tempo che sono finiti i due anni ho finito tutto. Dopo, quando sono tornato a Londra, ho detto ma pensavo di avere più soldi, e la tipa ha detto Poi dopo avevo anche un libretto di risparmio dell'Abbey National, che fra l'altro ho ritrovato oggi, non so perché, e le ultime due transazioni sono bellissime, perché tipo ci sono 24 centesimi, cioè tipo 100 sterline e 24 centesimi di interessi. Io dall'Italia tolgo 100 sterline, rimangono 24 centesimi di interessi e loro mi fanno un assegno per 24 centesimi. No, 24 penny, fra l'altro, perché era inglese. Cosa che in Italia non credo che succederebbe. No, 24 vanno a finire nel fondo, andrebbero a finire in qualche fondo. Qualche fondo nero. Molto bene, direi che sono le 21:28 e possiamo far partire i fantastici spot della nostra pubblicità, che è cosa che tu, appunto, tu sei un privilegiato, uova soda e noci non ha la pubblicità. Non ha la pubblicità. È bellissima questa cosa, devo dire che ti invidio un po'. 037, centro estetico venerdì 3 marzo, bellezza e benessere a 360 gradi. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Questo l'ho registrato dalla radio quando ancora non ce l'avevamo. E che dire, è arrivato siamo già al tempo delle menzioni. E dunque, l'angolo della menzione. Devo dire che sto mixer ci vuole una discreta velocità di mouse per fare quello che fa Fedra con tutto questo gran nonchalance tutte le volte. E dicevamo, allora, le menzioni, abbiamo prima menzionato questa mostra che è inaugurata ieri, anzi no, è inaugurato, aperto al pubblico oggi, perché ieri sono stato alla conferenza stampa che appunto si intitola Costruire il Novecento a Palazzo Fava, Palazzo delle Esposizioni, capolavori della collezione Giovannardi, 90 opere provenienti dalla collezione Giovannardi realizzate dai migliori pittori italiani attivi tra le due guerre mondiali, a cura di Silvio Evangelisti, e questa Palazzo Fava, biglietti 13 euro. Gran mostra, soprattutto perché ci sono un sacco di Morandi che, essendo di una collezione privata, nessuno aveva mai visto, e basta. E poi ci sono questi spettacolari dipinti di Osvaldo Licini, che appunto a me è sempre piaciuto tantissimo. Poi mi sono ricordato che mi è sempre piaciuto tantissimo proprio perché è stata Silvia Evangelisti a farmelo conoscere, e con lei Concetto Pozzati, il quale lo salutiamo caldamente, non che in questo momento stia ascoltando Coxo Spaziale, ma non si sa mai. Io avrei bisogno tipo di un file chiamato Silenzio con cui poter fare intervallare questi, un file e quell'altro. Esatto, adesso la settimana prossima me lo procuro. Dopodiché abbiamo una menzione per Giulio. Allora, sabato 25 febbraio, ora 18, Echo of Hidden Places. Doppio personale di Jasmine Pignatelli e Patrick Tabarelli, a cura di Maria Letizia Paiato. L'arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile. L'essenza della grafica induce spesso e giustamente all'astrazione. Nella grafica albergano i fantasmi e le fiabe dell'immaginazione, e nello stesso tempo si rivelano con grande precisione. Fabula Fine Art, via della Podesta 11, Ferrara. Non ho capito niente, ma ci fidiamo ciecamente. Poi l'ha curato la Paiato, la conosci, te la ricordi la Paiato? Sì, era un'edizione di setup dove eravate tutti vestiti di blu, di azzurro, e anch'io arrivai casualmente vestito di azzurro, quindi... esatto, avevamo inscenato uno stand Ikea all'interno, sì, di questa... esatto, o giallo e azzurro, insomma, e comunque anch'io ero vestito così casualmente, per cui è stato molto interessante. È stato bello, e ho pianto tanto. Adesso, cavoli, mi tocca di... speravo che ci fosse una musica di sottofondo un po' più cruenta, ma va bene lo stesso perché siamo in disadattamento totale. E perché abbiamo una menzione con il telefono, e siccome Fedra mi impone di fare queste cose, allora siamo a giovedì e venerdì 2 e 3 marzo alle ore 21 abbiamo Discorso Grigio at Ateliersi, il terzo appuntamento del focus sul linguaggio politico che caratterizza Fuori la Lingua, il programma del SI 2016-2017. È uno spettacolo del gruppo Ravennate, Fanny ed Alexander, giocando con i luoghi comuni del eccoci qua, stavo giusto, siamo già direttamente live e sto raccontando il discorso grigio, giocando con i luoghi comuni dell'oratoria politica ed esaltando le potenzialità qualità di una parola carata in una drammaturgia intrecciata e volutamente sorprendente, Marco Cavalcoli incarna un misterioso presidente alle prese con un importante discorso alla nazione. E abbiamo noi qui Chiara Lagani, cofondatrice di Fanny Alexander, che ci racconterà tutto, giusto? Come stai, Chiara? Giusto, bene, bene, grazie, buonasera a tutti. Buonasera a te, io sono Stefano, non ci conosciamo, ma piacere. Sappiamo che Fedra quando dice telefona, io telefono. Raccontami che cosa, allora, che cosa succede ad Ateliersi, che fra l'altro io devo ancora venire a trovarvi. Ahimè. Ah, devi assolutamente, perché è un luogo molto bello, con una programmazione molto bella. Succede che noi presentiamo questo lavoro, che fa parte, è un lavoro che ha già qualche anno, fa parte di un ciclo più lungo, dedicato proprio alla retorica, ai discorsi pubblici, nei vari ambiti della vita umana, politica, educazione, sport, religione e così via. Questo è il primo che ha inaugurato il ciclo, si chiama Discorso Grigio, come hai detto, perché il grigio è il colore che noi abbiamo associato alla politica. Diciamo che non è difficile intuire il perché è una riflessione sul linguaggio che sta a metà tra tante cose, che gioca sulle sfumature ambigue e che a volte si avvale anche di quella che viene definita poltiglia, che viene definita è un linguaggio medio, diciamo, un linguaggio che non conosce le vette del sublime, ecco, molte volte c'è questa specie di giro retorico intorno alle cose, alla fine stringi quello che ti arriva, il senso profondo delle cose si riduce a poco. La storia è presto detta, c'è questo signore che annuncia la sua candidatura, è appena stato eletto anzi, e quello è il suo primo discorso che fa alla nazione, all'Italia. Immaginiamoci quindi, adesso siamo in quel periodo lì, era caduto il governo Berlusconi, siamo sempre in odore di caduta di governo, in realtà purtroppo è quasi sempre attuale. È un tema sempre attuale, infatti. Esatto, per noi ciclicamente sembra che sia una storia che si ripeta. Comunque immaginiamoci che cade un governo qui in Italia e il giorno dopo un uomo nuovo, comunque che si definisce tale, inizia a governare perché a furor di popolo è stato eletto. E dice: io vi porterò tutte le novità in cui voi sperate, migliorerò le vostre condizioni di vita, sarò diverso da tutti gli altri. A poco però nel suo discorso, in maniera sempre più inquietante, riconosciamo non soltanto le cose dette dalle persone che lo hanno preceduto, ma anche negli anni remotissimi, insomma, non solamente gli ultimi 20-30 anni, ma proprio anche la storia dell'Italia più addietro. Ma poco a poco, con una specie di tic ossessivo, lui comincia anche a parlare esattamente come loro, cioè con la stessa inflessione, con gli stessi tic linguistici, con lo stesso tono di voce, assumendo in maniera abbastanza impressionante proprio la natura e il carattere di per cui è diventa Berlusconi, diventa Renzi, diventa Prodi, diventa Monti, diventa, e c'è un gioco col pubblico al riconoscimento anche naturalmente di tutti questi personaggi che lo abitano, è completamente invasato da questo teatro di personaggi politici noti e dà vita però a un personaggio che non ha nessuno di loro al contempo e che da un certo punto di vista è lo specchio anche di tutto quello che siamo noi, di tutto quello che abbiamo sentito in questi anni, qualunque idea politica noi abbiamo, di tutto quello che la televisione per esempio ha portato nelle nostre case. Ecco, poi si arriva a un finale che non voglio rivelare per non rovinare il gusto a chi verrà a vederlo, però insomma questa è la suggestione che mi sento di darvi. Fantastico. E il finale poi me lo faccio raccontare da Fedra venerdì prossimo, magari. Esatto, infatti, perché questo non voglio rivelarlo, perché appunto lo che viene è un momento chiave che dà anche l'interpretazione proprio a tutto il lavoro, per cui mi fa piacere che chi viene abbia questa sorpresa. Molto bene, noi ti ringraziamo, allora ci vediamo ad Ateliersi. Troverete su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i dettagli di tutto del programma e il link alla vostra pagina Facebook. Infatti, esatto. Molto bene, grazie mille, ciao. Grazie mille, grazie. Ecco, e molto bene. Adesso invece da oggi all'8 marzo, lo sapevi Lolli, che l'8 marzo le donne sciopereranno in 40 paesi di tutto il mondo. Avevo sentito qualcosa, non sapevo che fosse una manifestazione a livello mondiale, però qualcosa di scioperi avevo letto. È strana sta cosa, chissà se ha a che fare con Trump, probabilmente sì, perché effettivamente non è la prima volta che l'8 marzo sì, scioperano è una reazione, le donne di tutto il mondo. Una reazione che anche giustificata allo schifo che stiamo vivendo sì. In questo periodo. Cioè, fra l'altro, obiettivamente c'è una voglia di guerra quasi palpabile, no? o mi sbaglio? Sì. Cioè, dovunque, c'è una anche violenza verbale e anche fisica in realtà in giro abbastanza spaventosa. Non ho, devo dire che io faccio un po' fatica a capire questa cosa. Dunque, l'8 marzo le donne sciopereranno in 40 paesi di tutto il mondo, anche in Italia incroceremo le braccia, incroceranno le braccia, perché noi stasera siamo qua tre maschi all'interno del nostro studio di Radio Città Fujiko, interrompendo ogni attività produttiva e riproduttiva contro la violenza maschile sulle donne e tutte le forme di violenza di genere e del genere. E mercoledì 8 marzo sciopera anche tu. Vuoi sapere cosa fare per poter prepararti al meglio e collaborare? Ecco i link www.nonunadimeno.wordpress.com e tutti altre pagine Facebook che troverete appunto sul nostro blog coxospaziale.blogspot.com. Dopodiché io mi appresto, prima devo sbloccare di nuovo il mio telefono perché si è ribloccato, mi appresto a telefonare alla nostra fantastica Andy Gio. Non sbloccare i numeri bloccati. No, assolutamente, perché poi dopo succede che qualcuno dalle mani poco grandi, anzi no, un po' grasse, ma un po' dopo poi mi telefona e succede un finimondo. Sono piccole ma sottoste, ma sono come due barilotti. Esatto. Ecco qua. Io sto telefonando alla nostra Andy Jo, che fra l'altro è stata DJ anche. No, non è stata DJ, è stata una W l'anno scorso. Vediamo se mi risponde direttamente lei oppure se devo chiedere di lei. L'orario è perfetto, le avevamo detto i 45, sono i 42, direi che non ci siamo sbagliati più di tanto. Fedra può testimoniare, però non mi risponde. Cosa, forse è troppo attiva a fare l'attivista bolognese del movimento Non Una di Meno. E comunque mi piace molto la scritta che hai sul telefono, che ho visto in foto. Ah, anche, sì, questa sì. Me l'ha mandata un mail artista, Vittore Baroni. Mi è arrivata l'altro giorno, ho detto aspetta che l'attacco sulla mia fantastica cover. C'è scritto Assume this phone is tapped, che significa prendi per buono che questo telefono è sotto controllo. E detto questo, mi dispiace Andy Jo, ma il tempo è scaduto. Ecco, mi ha risposto no, dice call ended. Allora, non lo so, telefoniamo a Giffo. No, forse non è il caso. Niente, mi dispiace, è la nostra attivista bolognese del movimento Non Una di Meno per l'8 marzo e non mi risponde. Fedra, cosa possiamo fare? Possiamo fare di ascoltare questo pezzo perché è particolare, non c'entra niente con l'8 marzo, ma i due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Con i verbi all'infinito faccio rime all'infinito, alle sagre aiutare i volantini a compilare, e sebbene vuoi mangiare qui da noi devi arrivare, che se non tu voglio infliggere un poco dovrò soffriggere, aprirò un video noleggio per campare sempre peggio, così manderò a fanculo chi scarica da emule mi rovino e compro un taxi. Sempre maledetto CIXI, visto che solo a pensarci io mi incazzo sempre più. Voglio prendere un'edicola o una rimessa agricola, devo aprire un'officina prima che venga mattina, vado a fare il lattoniere, l'antennista, il carrozziere, voglio avere tre cavalli. Uno brutto, gli altri belli, voglio seppellire i morti giù nella valle degli orti, voglio essere maciste nella valle dei farmacisti, voglio assistere un notadro, voglio fare il benzinadro in portarie dall'Olanda, poi scappare con la panda, fare il culturista unto, poi scappare con la punto, fare il vecchio pensionante, poi scappare con la badante, fare il tato coi bambini e scappar coi pannolini, fare il tato coi marmocchi e scappar con i pidocchi ogni tanto, suonare ancora un po' con i big fest, costruire bimbi finti da usare nei crash test, laureati in preveggenza frequentando fuori sede per poter leggere i fondi, per poter leggere il piede. Questa è l'ultima canzone, ve lo giuro, questa è l'ultima canzone, son sicuro, questa è l'ultima canzone, non ce n'è più per nessuno, questa è l'ultima canzone. Meno 3, 2, 1. Già finito? tanti numi. Che na? Sei tu anche santi numi, è spaventoso questa cosa. Mi ero dimenticato, avevo qualche, la Fedra mi aveva chiesto, questa invece è la Teresa Ricci. No, dicevo, Fedra mi aveva chiesto un jingle, allora io mi hai rovesciato. Ti ho rovesciato, non so cosa, forse un qualche due minuti di Lolli anche quello, e poi ho messo santi numi. Mi ero dimenticato di mettere lo stacco della menzione prima, per cui mi raccomando, scioperate l'8 marzo. Olè, eccoci qua. Allora, dicevamo, io più o meno un anno fa, un giorno mi sono svegliato, ho detto aspetta che twitto il fatto di avere un programma radio locale sui miei amici di Twitter internazionali, perché poi non so bene, ma io Twitter lo uso in inglese, e allora ho scritto una roba del tipo: fate della musica strana, speditemela come MP3 a questo indirizzo, e che la metto su una radio locale di Bologna. E dopo un po' hanno cominciato a arrivare questi MP3 di questa Tamara Bubble, che è una nera bella tosta che fa questi gran rap, ma e lei me ne spedisce una alla settimana, per cui ogni tanto ne metto uno, poi quando lo metto le scrivo, lei twitta che è su Radio Città Fujiko ed è contentissima. Fra l'altro non è neanche male, un pezzo penso che sia anche riuscito ad entrare da qualche parte in una qualche classifica americana. Mentre invece la settimana scorsa mi è arrivato questo, che credo che sia della Giddy Money Records, che se non sbaglio è una casa discografica. Una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Esattamente, ecco, una casa molto carina, molto discografica, credo tedesca, e mi è arrivato sto pezzo che si chiama Donald Trump, però con 2M, 2L, eccetera, featuring Steven D'Ajour, ed è un gran pezzo reggae, lo mettiamo su subito. È abbastanza spaventoso, my African hero. Donald, you have a big problem and a huge ego. That young boy Donald Trump, a wampum, a fool, his money is worse than a drum. Donald Trump, a wampum, argument come to bump. That young boy Donald Trump, him a wampum, a fool, his money is worse than a drum. Donald Trump, $4 billion should beat up your bloody. Why black people are the suffering class? Why is there a borderline for Mexicans cross? A terrorist, you call me to my turban rob, discriminating the poor man's job. Rasta na vote fi no guy, you must be mad. Straight before man and that Donald Trump, a wampo, a fool and his money is worse than a drum. Donald Trump, what make you hate Negro? What make you hate? Donald, you never respect my African hero. No respect, none at all. Donald, you have a big problem and a huge ego. That damn boy Donald Trump, a wampum, a fool, and his money is worse than a drum. Donald Trump, a wampum. Ah, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato il Terror from Outer Space acceso. Stavo guardando che Paul Weller hanno lasciato la classifica di Radio Città Fujiko accesa in questo computer e non so perché mi è apparsa e vedevo che Paul Weller è al 34esimo posto. Oggi era al 34esimo posto della classifica con Wake Up the Nation. Wake Up the Nation mi sa che è una roba vecchia. Ah, forse perché adesso in giro sta facendo un tour. Ah, dici? Perché il suo disco Saturn. Perché non è facile da interpretare questo file, è un ODS. Adesso lo chiudo, fra l'altro, che così siamo sicuri che non glielo formatto dopo. La settimana prossima li sento smadonnare dal vivo. Non era male sto pezzo Donald Trump. No, ma infatti simpatico. La cosa che mi veramente mi annichilisce la quantità di musica che c'è in giro per il mondo. A cui hai la possibilità di accedere gratuitamente, ma cioè, il problema è anche che adesso non so se vogliamo addentrarci in questo discorso. No, assolutamente. Io fra l'altro ultimamente mi sto intrippando con la radio di SoundCloud, cioè tu gli metti una canzone e poi gli dici clicca la radio e lui ti fa sentire dei gran sconosciuti che però alcuni sono bellissimi. Io mi sto facendo una cultura musicale con SoundCloud, perché poi SoundCloud può essere chiunque, cioè anch'io ho l'account SoundCloud come tu e come sì, Giulio sì, ce sì, l'hai sì. L'account SoundCloud? Sì sì certo. Ah pure certo. Tu, grande. Sì però non produce. Ah ok, ascolti. Ah beh è vero, perché poi bisogna averlo anche per ascoltare. Il fatto che comunque che tutti hanno la possibilità adesso di registrare i propri pezzi a casa, cioè adesso veramente saranno già 10-15 anni già un po', ecco, effettivamente sì. però si è saturato il mercato in maniera allucinante, un mercato che comunque non esiste più, perché non è sì, che esatto. I dischi non li vendi quasi più a parte noi feticisti. Ieri ho comprato il vinile dell'ultimo di Leonard Cohen, ma io sono fuori di testa, cioè. Ah Dio buono, anche perché cosa costa? Cioè, no guarda, ho avuto con i punti dei punti delle cose della tessera 10 euro. Ah fantastico, ecco. No perché l'altro giorno io confido di avere comprato l'ultimo doppio di De Gregori che sono un fan e ho chiesto alla cassiera ma il vinile cosa costa? 40,99 euro, cioè neanche 39,99 euro, 40,99 euro, cioè cazzo 40 euro per due vinili è veramente Poi è anche poco, relativamente poco rispetto ad altri vinili che costano 26 euro un singolo disco. Magari dischi anche ristampe, che ne so, di Neil Young, delle cose che in fin dei conti sono delle ristampe, cioè non puoi, certo, puoi no. Dire al vinile di Neil Young stampato ieri l'altro col codice a barre dietro, cioè, no infatti e costa 26 euro ho saputo che hanno ristampato anche tutti i Beatles, no? In vinile di nuovo ancora? Sì, penso di oppure è vecchia, non lo so. Beh, hanno fatto due buttate, una in stereo e una in mono. Sì. Ma anni fa, già qualche anno fa. Ah, sì. Poi uscì la mela USB, cioè una mela, un Apple verde, che dentro l'apri c'è un USB con tutti gli album in formato FLAC, non compresso. Addirittura. E poi cos'è uscito? Poi è uscito il cofanetto delle edizioni americane, della Capitol. Cioè c'è un'orda di cofanetti per non ma parlare sì, di anche perché poi alla fine è l'unica musica che vendono, no? Sì, quelle che sempre no. Le stesse canzoni alle stesse persone, cioè, esatto. Io dei dischi li ho comprati 6-7 volte, gli stessi dischi. No, perché effettivamente mi ricordo, ti ricordi quando c'è stato Anthology, no? Sì. Che a un certo punto hanno prodotto 3 o 4 canzoni nuove dei Beatles prendendo dei pezzi di registrato da sì, il demo di John Lennon. Il demo di John Lennon e aggiungendo Paul McCartney e tutti gli altri. E Ringo Starr. Sì. No, però no, mi sa che forse era già morto. No, no, c'era George Harrison. Ah, c'era, sì, c'era anche George Harrison. Sì, sì, sì. Mi ricordo che ho ascoltato Free as a Bird la prima volta per radio e dicevo, ma chi sono questi? Pensavo che fossero tipo gli Yellow o qualcosa del genere, invece era il nuovo dei Beatles. Che io ero in Inghilterra in quegli anni, fra l'altro. È stato abbastanza spaventoso. È stato impressionante dopo tanti anni di. No, perché poi era accompagnato da questo documentario che facevano sulla BBC, praticamente facevano due o tre puntate, una puntata alla settimana di un'ora, che io stavo lì ad aspettare, me le registravo col VHS eccetera, e anzi forse qualcuno ne ho ancora qualche copia, e poi dopo ogni tre settimane usciva il cofanetto con il doppio CD. Ho speso un'esagerazione in quegli anni, però me li sono portati a casa tutti e sei, credo, o quattro. Sono tre doppi, sei CD. E poi c'è, poi uscì il cofanettone delle VHS, dopo 8 mi pare. Ah, ecco, no, quello mi quello manca. L'ho saltato, sono passato direttamente al DVD. Ho preso il cofanetto del DVD. Ah, beh, per cui sei abbastanza un feticista anche te. Ma lascia perdere, adesso ci sono i cofanetti dei King Crimson, ne ho comprati due. Ah. The Road to Red costava 140 euro, non l'ho preso. Ho preso Track e l'altro, quale pure? Ah, dove c'è il remaster di Discipline Beat, Three of a Perfect Pair. Insomma, dei cofanetti da 100 euro l'uno con 13 CD, 4 DVD, 5 Blu-ray. Un librone, le copie dei biglietti, dei programmi, dei tour program, una roba da pazzi. Ho capito. Proprio per noi che non ce la facciamo a vivere senza queste cose. Noi disadattati, che poi io adesso non ho neanche più il tempo. Io ho giusto il tempo quando vado prima di andare sotto la doccia, ho il tempo di ascoltare qualche pezzo su SoundCloud e sono già contento così. Detto questo, è la puntata di la 100, non mi ricordo più, 72, no, così era 171esima. 171, cioè, insomma, non ce la faremo mai a capire. 171. No, secondo me siamo almeno alla 173. Comunque è finita, per cui l'unica cosa che posso dire è grazie per essere venuti e dare la parola al nostro direttore che come al solito ci dice. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.